Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Dallo scorso 30 novembre è entrata in funzione una complessa infrastruttura informatica che ha reso intelligente, nel senso della Smart City, da cui prende il nome anche la nostra trasmissione, l'area di ricerca del CNR, Consiglio Nazionale della Ricerca, di Pisa. Parliamo di un'area di 130.000 metri quadri che ospita 13 istituti di ricerca del CNR e vari altri centri di ricerca e tecnologici, popolata da circa 5.000 persone, quindi un'area di ricerca che ha più abitanti di oltre metà dei comuni italiani, e tutti questi abitanti per di più hanno anche una propensione, una predisposizione a usare la tecnologia. Insomma, si tratta di una condizione ideale per sperimentare su una scala intermedia, diciamo così, le cosiddette tecnologie della Smart City. Ne parliamo con Domenico Laforenza, che è appunto presidente dell'area CNR di Pisa. Buonasera Laforenza. Buonasera a voi. Allora, come nasce questa iniziativa? Partiamo da qui. Ma l'iniziativa nasce da un punto importante. L'area è una cittadella vera e propria della ricerca e della scienza, molto ampia, tantissime persone, e ci sono una serie di servizi legati ai parcheggi, alla sicurezza in aria, eccetera, che devono essere monitorati. Soluzione numero uno: compra la soluzione oppure la fai in casa. Noi abbiamo ricercatori che sono molto bravi in diverse aree della ICT e limitrofi, i settori limitrofi, che hanno queste competenze. Abbiamo poche risorse, pochi soldi, ci siamo detti facciamoci qualcosa in casa, e ne è uscito questo risultato molto interessante, che ha già prodotto dei prototipi funzionanti che possono essere tradotti in servizi per questo. Ecco, e tra l'altro quello che mettete in piedi è anche una specie di grande showroom, se così si può dire. Esatto, l'effetto collaterale qual è? È che noi abbiamo prodotto questi prototipi di servizi, sia hardware sia software. Mm-hmm. Adesso ne vediamo qualcuno. L'idea è che questa cittadella diventi un laboratorio a cielo aperto, offerta alle piccole e medie imprese del settore, che operano nel settore delle smart cities, che possono o vogliono prendere le nostre tecnologie e integrarle nelle loro, o viceversa, proporci qualcosa da integrare nelle nostre. Sperimentare le loro tecnologie nel vostro contesto. Ecco, allora facciamo appunto qualche esempio, se ci spiega insomma brevemente di che cosa stiamo parlando. Allora, noi ci siamo mossi in cinque direzioni diverse. La prima è quella legata ai parcheggi. Il parcheggio, la cittadella è grande, ma non mai sufficiente a contenere tutti in aria. Quindi uno smart parking, applicazioni che però, basandosi su tecnologie non convenzionali, utilizzando per esempio le telecamere, possono andare a monitorare lo stato dei parcheggi in area. Quindi si tratta di capire posto auto per posto auto se è libero oppure occupato, in modo insomma da poter dare indicazione a chi sta cercando parcheggio per trovare quello libero più vicino, diciamo. Esatto. Questa è la tecnologia. Prima di entrare in area una persona è informata se può entrare o no, addirittura fare un'operazione di chiusura dell'area laddove c'è già una congestione. Ok. Un'altra questione importante legata a questo, che è un effetto collaterale non indifferente di questi tempi, sono gli aspetti legati alla protezione e alla sicurezza dell'aria, sì. Che è un sottoprodotto molto importante di questa tecnologia. Un'altra questione molto importante è quella dell'accesso in area, quindi uno smart badge che usa, per esempio, certo, fa usare non solo il badge ma il telefonino per entrare, con tutto quello che si può. Un'altra tecnologia importante legata, quando sei in area, è legato all'uso del building, quindi tecnologie tipicamente domotiche o paradomotiche alla smart building. Quindi per esempio per, ancora una volta, sicurezza, ma anche energia. Esatto, energia, risparmio energetico, possibilità di accedere intelligentemente o evitare degli accessi, delle intrusioni particolari, eccetera. E un'altra questione molto importante è legata a quello che riguarda la navigazione in area, no? Navigazione in area che, essendo la cittadella molto ampia, spesso presenta dei problemi per le persone che per la prima volta ci mettono piede. Ma poi spesso è impossibile non solo navigare tra gli edifici in questi contesti, ma anche dentro gli edifici, che a volte sono dei labirinti peggio che all'esterno, no? Il nostro è un vero labirinto, sono chilometri di spesso corridoi, così, spesso non identificabili l'un l'altro, quindi questo è molto importante averlo. E un'ultima, ecco perché no, non l'abbiamo detto, ma questa navigazione funziona anche all'interno, non solo all'esterno col GPS, sì. No? Quello che state sperimentando, la navigazione cosiddetta indoor, la geolocalizzazione indoor. Esattamente, indoor. Quindi uno riesce a entrare dentro gli uffici, vuole individuare l'ufficio di una persona, può navigare. Può farlo. Questo. Ma c'è un'altra applicazione interessante, è quella che è la shared mobility, cioè applicazioni che permettono in qualche maniera di proporre alle persone di non venire col proprio mezzo in area, ma venire con un mezzo messo in condivisione di volta in volta. E quindi anche questo è un fatto importante, certo. Ma tutto quello che rende questo importantissimo, a mio avviso, è l'integrazione, ecco, che infatti, si ha dei dati, infatti, che vengono... perché in fondo, presi singolarmente, molte di queste tecnologie, molte di queste soluzioni più o meno esistono, magari diverse, fatte diversamente, ma qui quello che voi potete sperimentare è che cosa vuol dire magari far interagire tutto questo. Allora, noi cosa, come facciamo a fare questa integrazione? Prima di tutto abbiamo bisogno di un sistema cloud, una nuvola, sì, interna all'area, che riescono a alimentare le proprie unità di memoria con i dati che provengono da questi vari servizi sparsi. Dopodiché su questo c'è uno strato software che permette non solo di andare a analizzare i dati del singolo servizio, per esempio quante, sì, sono le auto che entrano all'interno, ma metterle in correlazione, certo, con altri dati, per esempio i dati atmosferici. Abbiamo anche, certo, uno smart environment di cui non ho parlato, dove c'è centraline che misurano per esempio gradi di inquinamento all'interno, che possono essere messe in correlazione. Va bene, grazie Domenico La Forenza, e avanti così. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.